sono spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei tra. E bentornati alla seconda puntata, il secondo programma registrato qui a Setup per le puntate speciali di Coxo Spaziali. E dopo la prima in cui abbiamo rincontrato Stefano W. Pasquini, Fabio Cavallucci, Maria Letizia Paiato e Giada Pellicari, siamo di nuovo con altri super mega ospiti coxicissimi, ma veramente veramente un super mega co-conduttore occasionale che ci viene direttamente da Radio Città Fujiko. Sono fierissima di presentarvi Max Macchia in qualità di co-conduttore coxico, solo per stavolta, forse anche per delle prossime. Ciao Max. Ciao, buonasera, buongiorno per chi ci ascolta di giorno, insomma. E buonasera per chi ci ascolta di sera, esatto, e buona mattina, buonanotte eccetera. Che come avrete già sicuramente riconosciuto dalla super voce, è il conduttore di 451 Frammenti Sonori, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko, che è un programma radio che ha ideato insieme a Eliseo Scarpa, Lorenzo Albano, facendo insomma che va avanti da un po' di anni. Se vuoi imposto ancora di più la voce, così faccio, no? Vicino al microfono. Sì, ma musiche sperimentali, quindi di conseguenza collegate all'arte, quindi anche le tue faccende. Di no? Conseguenza sei coxicamente e spazialmente collegato a quello che è l'ospite di questa seconda puntata delle speciali del Coxo, perché abbiamo un musicista, compositore, e poi andremo anche a conoscere meglio perché e per come, perché è qui anche in veste di fratello maggiore, ma forse anche di padre, che si chiama Bartolomeo Sailer. Ok. Ho voluto introdurre il nostro ospite con un suo brano per entrare più nel pieno del discorso. Adesso però, visto che di musica si tratta, cedo con molto orgoglio e piacere a Max Macchia, co-conduttore coxico per la seconda puntata degli speciali del Coxo Setup. Beh, prendo la palla al balzo, anzi come dire, onorato, caro. Beh, Bartolomeo Sailer, beh, ci conosciamo, ti conosco insomma per faccende legate a produzioni con bebop, ad esempio dentro a compilation storiche legate vagamente a glitch music, alla techno, sì, più fuorviante, più interessante forse anche della fine degli anni 90, primi anni zero. Ci hai portato tra l'altro dei dischi tuoi appunto storici. Hai iniziato con Wang Inc, no? Sì, ho iniziato con Wang Inc, primo disco nel 1999, etichetta Sonic. Quindi l'etichetta di Mouse on Mars, diciamo. Esatto, colpo di fortuna incredibile, e poi da lì è stata una lenta discesa verso l'oblio. Come tanta musica elettronica italiana. Esatto, sì, come moltissima musica elettronica italiana, anche perché in Italia uno per fare le cose fatte bene deve andare fuori e poi dopo qua si dimenticano completamente di me. Ma infatti avevi pensato magari a Berlino, immagino, perché è stata meta. Ma no, a me di emigrare non mi è mai passato per la mente, anche perché penso che fare le cose nella propria terra natia sia comunque bello, perché è più facile da un lato, dall'altro è più difficile perché manca, in posti come l'Italia manca moltissimo, però dall'altro è più facile incontrare persone, comunicare, avere idee, sviluppare nuovi progetti. Da quel punto di vista lì, parlando tutti la stessa lingua, è molto più facile proprio incontrarsi. Quindi un discorso di comunicazione. Sì, sì, ma anche di radici culturali, di affinità proprio. È molto più facile incontrare delle persone che hanno il tuo stesso progetto di vita, la tua stessa visione del mondo. Probabilmente con dei tedeschi, anche se per un quarto sono tedesco, avrei fatto più fatica. Perché viene da Bolzano. Esatto, perché vengo da Bolzano. Sì. Tra l'altro ti ha molto influenzato anche nel tuo percorso la musica cosmica tedesca, me lo dicevi prima. Sì, sì. A un certo punto ho deciso di abbandonare Wang Inc e passare a un altro nome, e adesso sono ad un altro e ne sto già progettando un altro ancora. E ho abbandonato Wang Inc, sono passato a Walking Mountains. E lì ho un po' esplorato tutto quello che era la psicadelia degli anni 70, che non mi ero mai filato in vita mia. A 40 anni uno la scopre, dice wow che bella, ma sì, proviamo a fare un disco del genere. Quindi che o cose, almeno... californiani, in inglese? Per dire, anche partendo proprio dal più banale di Pink Floyd, oppure le cose più incredibili tipo il Zodiac Artist Club, no, di Berlino, proprio per andare nel super underground del cosmico e del kraut rock degli anni 70. Un po' preso da alcuni documentari che giravano su YouTube qualche anno fa, appunto, che partivano dai Kraftwerk e poi dopo allargavano un po' la visione, perché se uno pensa a Krautrock normalmente si pensa ai Kraftwerk, sì, e molto oltre non si va, sì. No? E invece c'erano tutta una serie di gruppi minori, tipo i Cluster per esempio, bellissimi, no? Che sono finiti un po' nel dimenticatoio, e allora ho pensato, cerchiamo di riprenderli in qualche modo. Ti faccio una domanda al volo, che già vedo un po' di, come dire, di inquietudine, no? No, io rido perché mi sono c'è qui anche Laura Ulisse, che sarà mia co-conduttrice per la prossima puntata, però sto rivivendo, sai, l'adolescenza in cui c'erano i ragazzi che erano tutti presi da queste cose di musica strane che non si capiva, e noi che invece li guardavamo e dicevamo mo. Sono nomi inventati, in realtà. Esatto. E perché adesso parliamo di musica, dopo quando parleremo di sintetizzatori sarà ancora peggio. Meraviglioso. È come il calcio, insomma, vedi? È la fine. Ti avevamo lasciato, quindi perlomeno io ti avevo lasciato come Wang Ying, che appunto lavoravi sul glitch. Sì. Come è sviluppato poi il discorso, appunto? Accennavi adesso, ora appunto... Adesso invece sono passato a quest'altro nome, un altro nome con la W, che si chiama White Raven, forse un po' scontato come nome. Su Spotify ce ne sono tantissimi. No, almeno ce n'è un altro gruppo con cui devo combattere per far sentire la mia musica. Però è musicalmente, quindi dal glitch al cosmico. No, ho deciso. No, sì, comunque la psicadelia, cioè, c'è sempre stata nella mia musica, e in ogni caso è psicadelica. Adesso invece, tipo questo brano che stiamo sentendo adesso è di White Raven, si chiama Yes. E un po' la folgorazione è stato un po' questa tech house romantica che è venuta fuori negli ultimi anni, che ne so, Nils Fram, oppure altre cose del genere, così, con un po' di pianoforte, un po' crepuscolare, un po' di melodie. E adesso l'altro che non mi viene in mente. No, ma più o meno se si è capito la faccenda. Sì, un po' così, che piace molto alle donne. È vero. Guardate, io sin qui ho capito che Max doveva fare una domanda, poi non ho capito se l'ha fatta e se è stata risposta oppure no. Noi siamo rizomatici, no? Andiamo rizomatici. Rizomatico lo capisco, mi piace. Allora, ti piace, no? Deleuze. Farei una propostina un po' così da femmina della situazione. Ma se ascoltassimo un brano dal tuo album psichedelico, quello che abbiamo qui, sì. E poi riprendessimo con l'altra, la seconda parte dell'intervista? Assolutamente. Okay. eccoci ritornati in questa avvincentissima puntata. Abbiamo detto che abbiamo trasmesso quindi The Coming Sun. Da che album? Walking Mountains. Ok, quindi era il periodo psichedelico. Sì. E adesso tengo qui Max e me lo gioco dopo come carta jolly. Per entrare invece con Bartolomeo e magari anche con Libero, chi lo sa, nello specifico di questo laboratorio, Control Art Lab. Control Alt Cancio. Ecco, sì, mi impapero sempre. Guarda, sono i tasti del computer. Però al posto di Alt è Art, se non sbaglio. Anche tu ti confondi, forse grande. Mi confondo anch'io. No? Però secondo me ci sta, via. Ci sta. Ti si pianta poco il computer, secondo me. Comunque secondo me ci sta che questa ambiguità della seconda parola che crea ancora più attesa. Sì. E vogliamo dire un pochino che cos'è? Sì, è una cosa che abbiamo iniziato l'anno scorso, almeno io l'ho iniziata l'anno scorso con l'Atelier C, dove praticamente si va lì e ci sono dei bambini e poi dopo iniziamo a giocare in qualche modo con le proprie specificità. In questo caso io, facendo il musicista di musica elettronica, mi porto dietro dei giochi che riguardano la musica. Normalmente iniziamo con un gioco per ricordarsi gli strumenti musicali, perché comunque gli strumenti dell'orchestra è bello saperli riconoscere, quindi una specie com'è il canzoniere, no? Io distribuisco delle carte con questi strumenti musicali disegnati sopra e poi dopo random ne suono uno e i bambini devono indovinare che cos'è. Questo è anche un modo un po' così per rompere il ghiaccio all'inizio. Una cosa, voglio introdurre un attimo ulteriormente, una cosa che mi ha molto colpito è stata questa definizione. Abbiamo parlato di questo laboratorio, di questo progetto con Fiorenza, che è stata ospite telefonica di qualche puntata del Coxo di gennaio, dedicate più all'arte, e ha presentato il rapporto tra questi artisti e i bambini come un rapporto tra fratelli, in cui l'artista si presentava un po' come il fratello maggiore. Sì, è come se io fossi quello che ha già giocato a quel gioco e insegno ai bambini come giocarci. E quanti bambini ci sono più o meno? Cambierà da volta a volta. Allora, però. Questo giro pare che la comunicazione sia andata benissimo e quindi è già murato di bambini. Di solito tra i 10 e i 12, ecco, una cosa del genere, che sono veramente tanti. E l'età? L'età va dai 4 ai 12 anni più o meno. Ah, cavoli, molto vasta quindi. Sì, 4-5. Tu hai avuto qualche esperienza come fratello maggiore nel tuo percorso di vita oppure sei andato a chiedere qualche consiglio a Libero? Ho un figlio bellissimo. Che ha anche una bellissima Libero, voce e un bellissimo se nome. Vuoi salutare? No, niente, si sente. Prima l'ha detto, però eravamo in fuori onda. Esatto, fuori onda. Salve. Secondo me un ciao lo dice. Libero, magari, un ciao. Magari, no. Magari a sorpresa verso la fine, quando meno ce l'aspettiamo. Esatto. E quindi, tipo, la primissima esperienza che ho fatto con i bambini è stata quella di andare a scuola sua quando faceva la scuola materna e spiegare il mio lavoro ai suoi compagni di classe. E quindi abbiamo fatto anche lì il gioco con le carte, gli strumenti musicali. E poi dopo io ho letto una storia dei Barbapapà che suonano gli strumenti musicali e l'ho musicata, perché a un certo punto, che ne so, iniziavano a suonare il pianoforte, poi suonavano il sax, poi suonavano il contrabbasso. Allora io, leggendo la storia, schiacciavo su un tastino e facevo partire un pezzettino in più della melodia che si aggiungeva per arrivare poi alla fine del... Insomma, è iniziato così. Poi ho fatto col Robot Festival, ho fatto due Robot Kids, uno al Mambo e un altro invece quest'anno era al Must. Anche lì è cose divertentissime, perché comunque i bambini ogni volta sorprendono. Infatti, adesso entriamo proprio dall'altro lato, quindi esatto. che cosa raccogli tu dai fratelli minori? Io dai fratelli minori raccolgo innanzitutto la spontaneità, Un esempio che faccio sempre, che mi è successo sia al Robot Kids che anche due domeniche fa con i bambini all'Atelier C, è che io li metto in mano questo piccolo strumento della Korg che si chiama Monotribe, che è una piccola batteria elettronica con un synth dentro, e poi gli dico: questo qui è il pirulino per decidere la velocità della batteria, no? E questi non è che vanno a cercare il ritmo che cerchiamo tutti noi produttori, no? 90, 120, 130, no, tutto a palla. Adesso comincia dai numeri. Mettono tutto velocissimo e quindi fanno queste cose che sono tutte così. C'è Libero che sghignazza. Esatto. E poi dopo si divertono ad accelerare, decelerare la velocità del brano e modulare il brano con questa cosa qua, cioè cosa che un produttore normalmente non farebbe mai, a meno che non è magari Aphex Twin, ecco. Però vedi appunto questa spontaneità e se ne fregano completamente le regole, e io non sto neanche lì a imporgliele, poi non è che gli dico: guarda che il brano lo devi far così, perché fratello maggiore, mica il papà. Esatto, ma non sono neanche il maestro, appunto. Proprio per quello. E quindi anche cerchiamo di non sgridarli, di non mandarli a casa. L'altra volta, per esempio, c'erano tre bambini che a un certo punto hanno deciso di fare la banda Scoreggioni. Scoreggioni. Ricerca avanguardia. Esatto. No, vabbè. Il problema è che sono andati avanti per mezz'ora con la banda Scoreggioni, e quindi... Che vita aveva la banda Scoreggioni, chiedo secondo te, Max? Che ditta? Non beat, no, quelli, beat, quei numeri che dicevate prima. La banda Scoreggioni secondo me è molto basso come beat. Esatto. Tra l'altro si sente mai lì, perché ci abbiamo provato poi tutti. Però è veramente una schifezza, è un suono che non suona in realtà. Esatto. E, no, tra l'altro la volta scorsa l'esperimento che abbiamo fatto era quello di prendere un piccolo film... di questo artista sperimentale canadese, animatore sperimentale canadese McLaren. Wow. È un filmettino dei vicini di casa. Ah, sì. E l'abbiamo provato a musicare. Siamo riusciti a fare tu, tipo... Tu è presente, Max? No, sai che qui perché... faccio sì io, appunto. Vedo io che me la godo. Per fortuna riesco a accontentare un po' un pubblico. Sia una cosa che l'altra, sono invidioso. Appunto, io infatti vorrei infilarmi fra i fratelli minori di questi fratelli maggiori, perché mi sa che finalmente riuscirei a capirne qualche cosa anche di musica, forse. Ecco, e quindi abbiamo provato un po' a rimusicare questo filmato. A un certo punto poi c'è stato l'intermezzo dell'orchestra Scoreggioni però poi dopo insomma siamo riusciti a fare un pezzettino, e devo dire che i bambini alla fine erano molto divertiti a riguardarlo e vedere quello che erano riusciti a fare. La prossima volta non lo so cosa faremo, mi inventerò qualcosa e magari ce lo verrai a raccontare più avanti, anche alle puntate in FM del Coxo Spaziale, che è un invito che apro a te e agli altri tre fratelli che magari conosceremo più avanti. Molto. E comunque volentieri. Tu sei quello della musica, c'è quello dell'architettura, del design, quella del video l'ultimo è sulla matematica. Quella lì servirebbe di brutto. Sui numeri e la matematica. Allora, propostina, visto che ormai siamo più o meno nei tempi radiofonici, secondo brano, annunciamo, ci dici già che cos'è? Secondo brano lo prendiamo dal disco di Wang Ink, e io direi di prendere Backwoods Roads Are Like Snakes. Ecco a voi, e poi per i saluti, magari anche a Libero. Thank you. rieccoci per l'ultima, ai noi, slot di programma, sia con il super mega ospite Bartolomeo Sailer, e forse anche libero se si rivela, e il super mega eccezionale co-conduttore occasionale di Coxo Spaziale, soprattutto occasionale, sì. Max Macchia, che infatti non, cioè, mi sa che la prossima volta non mi torna più quando lo invito. No, torno, come se non torno? Bene, abbiamo registrato, l'avete sentito tutti, quindi tu dovrai tornare anche al Coxo FM. Sì, vabbè, tanto siamo lì, compagni di radio. Quindi. La stessa cosa vale per te, Bartolomeo, che sei invitato a tornare in programmazione con le novità e magari anche con gli altri fratelli, tra virgolette, del laboratorio Control Art o Alt Lab Playground ad Ateliersi ogni domenica in questi mesi. E adesso io concluderei in bellezza questo programma con l'ultima domanda di Max Macchia. Va bene? Sono pronto. Domandona da 100 milioni di dollari. Allora, senti, una curiosità. Lo utilizzi mai i suoni che fanno loro? Non soltanto quella della banda Scorreggione, che abbiamo capito che... Nella produzione. No, di solito cerco di tenere i due mondi separati. Magari poi mi prendo un'ispirazione da quello che succede, però sì, faccio un po' fatica a inserire dei suoni bambineschi. Okay, nelle mie produzioni registro. Di adesso, ma perché... Perché adesso sono un po' su questa cosa qui per le signorine. E l'altra cosa, invece, l'altro progetto, quello nuovissimo che parlaci delle cose future e anche dell'etichetta. Che si chiama Dead Asshole Rave, cioè il rave dello stronzo morto. Ma c'era una parolaccia. C'era infatti. Una parolaccia, esatto. L'ho detto due volte. L'ho anche tradotto. Ragazzina austro-ungarica, io, sì, attenzione. Un po' sì, lo sei. Guarda il tacco, guarda che scarpa che ti ho. E appunto lui invece, questo personaggio qui, è un personaggio proprio... quando ho fatto il concerto al Freak Out qua a Bologna, in queste feste che organizziamo con la mia etichetta che si chiama Random Numbers, i miei compagni di etichetta mi hanno detto roba per la braga questa, proprio in modo schifato. È tradotto in lessico comprensibile. Cioè è musica solo per gli uomini, che fa scappare tutte le signorine. Le braghe le portiamo solo noi. È bolognese, esatto. Questo sì, allora. Sì, è bolognese. Il braga. Ma tanto nessuno di Bologna. Sono curiosa. Ce ne passi uno che lo mettiamo in chiusura di trasmissione? Sì, va bene. Dai, va bene. Dai. Ti passo un pezzo, però preparati. Fa abbastanza spazio. Non è hardcore, insomma. No, non è hardcore, è sempre musica elettronica, è sempre techno, però... Beh, io di hardcore quelle cose lì... È il lato oscuro della forza, insomma. Ho frequentazione con Bologna Violenta, lo conosco e mi piace. Ok. C'entra qualcosa? Non penso che c'entri niente, assolutamente. Beh. Ciao Nicola, è musica. Quindi, cioè, se vi capita... È braga. Se vi capita e non avete figli, che non li volete poi, e quindi non venite a trovarmi all'Atelier C, invece venite al Freak Out quando facciamo le feste con Random Numbers. Che l'etichetta? Random Numbers, okay, numeri okay. A caso. Stai facendo altre cose, sì, quindi come etichetta appunto. Sì, come produzione. Etichetta adesso ci siamo... Anche di altri autori. Stiamo organizzando, sì, tra gli autori c'è Spire, BXP, Marco Anzip... Siamo un po' noi fondatori di questa etichetta e per ora ce la meniamo tra di noi. Ecco, tutti elettronici, no? Tutta sì. Musica elettronica. È bello sì. Che il nome dei musicisti è quasi più strano del nome dei generi della musica. Però uno l'avevo già sentito, tipo, mi sa l'Anzip. Ah, Marco Anzip, sì, beh, può essere. Sì, beh, lui storia, sì. fa feste da 20 anni a Bologna, quindi è impossibile non averlo incontrato prima o poi. Bene, allora, grazie tantissime a Bartolomeo Sailer e a Libero Sailer. Sì, visto che siamo, scusa, l'ultima cosa, visto che siamo proprio in un programma dedicato all'arte, se siete degli amanti di Sky Arte, ci sono delle pilloline di Toilet Paper, rivista... fatta da Maurizio Catalan per Paolo Ferrari, tutte quelle pilloline l'audio l'ho fatto io. E allora sai che cosa? Qui su questo indirizzo che è www.coxospaziale.blogspot.com, che dirlo sempre di più mi allena e mi fa bene, troveremo anche il link per... a qualcheduno di questi video, c'è una playlist, esatto, su YouTube, si possono guardare. Sì. È tanto di cappello, veramente. Fatti insieme a un altro artista di emergente italiano, Yurian Carani. Meraviglia, meraviglia, una parola. Ci manca solo il saluto di Libero. Libero. Libero, dai, di ciao. Ha detto... questa era la voce. Ha detto anche Scorreggioni, eh. Eh beh, su quello non si fa fatica, eh. Ciao, alla prossima allora, cara, grazie. Ciao Max Macchia, grazie per essere stato un coxo conduttore occasionale. Ciao, ciao Bartolomeo Seller. Ciao a tutti. Grazie per essere stato super mega ospite e salutami Libero quando lo vedi. Grazie, grazie. Ciao. passo spaziale speciale eccezionale, se tu sei ta speciale. Passo spaziale speciale eccezionale, se tu sei ta.